Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Marina Marzotto di Propaganda Italia, che produce il film Woken di Alan Friel al cinema da giovedì 4 luglio 2024, ben trovata. Ciao, buongiorno a tutti. Come lo racconteresti in breve? Ti dico cosa mi ha attratto e la ragione per cui l'abbiamo prodotto. È un film futuristico, di fatto, che però parte con una premessa dove non si capisce dove si è. E arriva a un mondo diverso, quindi è un arco narrativo molto forte, c'è una parte molto tensiva che trovo molto efficace, e alla fine vincono le donne. E questo in un film che poi parla di clonazione mi sembra molto rilevante. Come è cominciato il vostro rapporto con questo film? Noi abbiamo un rapporto, direi storico, con una casa di produzione irlandese che si chiama Fantastic Films, che sono i produttori, per intenderci, di Vivarium, che fu anche alla Mostra del Cinema di Venezia. Abbiamo un rapporto storico essenzialmente perché Brandon, John e Deidre, che sono i tre produttori che stanno in Fantastic Films, hanno una linea editoriale molto simile a quella di Propaganda, hanno lo stesso tipo di ambizioni e quindi quando scegli un coproduttore è molto importante che ci sia una visione di cinema congiunta, simile in un qualche modo. Con loro abbiamo dei progetti in sviluppo che sono maggioritari di Propaganda e che loro stanno appoggiando come produttori minoritari, e viceversa abbiamo dei progetti con Fantastic che invece sono maggioritari loro e dove Propaganda produce da produttore minoritario. Ed è un bellissimo scambio, quindi Woken viene da quella fucina. Di Alan Friel cos'altro sappiamo? Alan Friel è un regista essenzialmente che ha lavorato in pubblicità, viene da un paesino dell'Irlanda che, è curioso, ha prodotto grandi talenti in realtà negli ultimi anni, tra cui, non so, il direttore della fotografia di A Marriage Story, piuttosto che alcuni dei film di Lanthimos. E Alan quindi ha lavorato estensivamente in pubblicità, ha fatto diversi corti, tra cui l'ultimo Cake, che tra l'altro figura Maxine Peake, che poi è anche in Woken. Maxine Peake, che in Inghilterra è una di quelle attrici che tra teatro e cinema viene considerata una sorta di mostro sacro. Lui fece questo corto tipo 3 anni fa, che si chiama Cake appunto, che tra l'altro credo che sia reperibile anche su YouTube e vi invito a vederlo perché è divertentissimo, con cui vinse i BAFTA, le cose eccetera, e quindi arrivò alla nostra attenzione, all'attenzione di Fantastic, l'abbiamo contattato, lui aveva il soggetto per Woken e da lì è partito lo sviluppo. Il film che percorso ha avuto all'estero prima di arrivare qui? Il film è venduto da Bankside Films per le vendite estere, ha una distribuzione americana importante, ma uscirà in America dopo l'Italia, d'estate, che è un po' il momento in cui gli americani tra l'altro fanno uscire i thriller, gli horror, i film per i ragazzi, queste cose qua. Ha avuto il debutto al Newport Film Festival, che è un Oscar qualifier, è stato al Festival di Dublino, è stato al Festival Trieste Science and Fiction in Italia e una miriade di altri festival. Diciamo che è un percorso che noi facciamo fare soprattutto tuoi film di prima regia, permettiamo sempre che ci sia un buon percorso festivaliero internazionale, chiaramente se il film riesce a ottenerlo, perché poi come tu sai queste selezioni sono anche molto competitive, però è importante perché permette di affermare il regista su una piattaforma internazionale, far vedere il film a molti distributori anche all'estero. Il film adesso so che ha altri due festival anche questo mese all'estero. Chiaramente quando hai un buon venditore internazionale è anche il loro compito quello di proporre il film ai festival, e normalmente quando vai a un festival riesci a vendere anche il mercato locale. Che uscita sarà in Italia? In Italia non facciamo un'uscita ginormica, anche perché è una settimana che comunque, non so, c'è la riedizione di Spider-Man, cioè, ci sono un po' di film importanti a Quiet Place che comunque continua a macinare, però io penso che saremo sulle 70 copie, non si sa mai, come sai, fino a martedì, mercoledì non si sa esattamente dove siamo. Curate, perché il film è un film comunque fruibile, diciamo, dai teenager in su, però è un film che presenta questioni esistenziali anche profonde, quindi stiamo cercando anche delle sale di qualità, chiaramente, e non unicamente il circuito dei multiplex. Sarà presente in entrambe. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo? Si può vedere tutto il piazzamento sulle pagine Facebook e Instagram di Propaganda. Il film Woken di Alan Friel al cinema da giovedì 4 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Marina Marzotto di Propaganda Italia che lo produce. A presto! A presto, grazie Federico! Con Massimo Veneziano di Titanus per presentare Titanus 120 Classics. Cinque capolavori del cinema italiano tornano in sala restaurati per celebrare i 120 anni della casa di produzione Titanus dal 27 giugno 2024. Ben trovato! Ben trovati e grazie per l'occasione e per l'ospitalità. Spieghiamo un po' questa operazione. L'operazione è recuperare alcuni dei nostri capolavori, ne abbiamo realizzati moltissimi nel corso di questi 120 anni di storia, ma crediamo di aver individuato quelli più iconici sicuramente, e riproporli nelle sale cinematografiche. Questi film sono Rocco e i suoi fratelli, La Ciociara, Il Gattopardo, Pane, Amore e Fantasia e La Prima Notte di Quiete. Sono rinvenibili nelle piattaforme, nelle TV generaliste, e quindi ci sono occasioni per poterne fruire. Però l'idea di riportarle nelle sale cinematografiche ci sembra una riapertura a un passato che vorremmo ritornasse a essere anche un presente e un futuro. Le sale cinematografiche sono un'altra cosa, è un momento di condivisione con gli altri spettatori di un mood, una situazione che non si può pensare uguale nelle nostre abitazioni davanti a una TV e con mille distrazioni, telefoni, frigoriferi e quant'altro. Quindi l'operazione era riportare questi grandi capolavori nei luoghi che li hanno celebrati nel passato. Qual è la situazione Titanus a 120 anni dalla nascita? Siamo un'azienda orgogliosamente in mano da 120 anni alla stessa famiglia. Questo lo vogliamo dire perché ci sentiamo profondamente italiani, e il fatto che nonostante ci siano state nel corso della storia della Titanus anche delle fasi complicate, quasi un fallimento che poi è stato invece un recupero quasi leggendario, vorrei dire. Ecco, il fatto di essere rimasti in mano alla famiglia Lombardo, quindi Gustavo il fondatore 1904, poi Goffredo che ha portato la Titanus all'apice del suo successo e oggi Guido, è un elemento di grande orgoglio. La Titanus prosegue nella sua attività produttiva, abbiamo creato da circa 3 anni una nuova unità che si chiama Titanus Production, che sta producendo film, serie televisive e prodotti dell'audiovisivo in generale. L'azienda però possiede anche una library molto importante, stiamo parlando di circa 500 titoli, che sono in distribuzione internazionale nel mondo, quindi ci rappresentano nel mondo in maniera molto ampia, trasversale e geograficamente in tutti i continenti. Abbiamo anche gli studi televisivi che sono sulla via Tiburtina, che sono un altro elemento di eccellenza, sono oggi completamente utilizzate dal gruppo RT Mediaset per la programmazione romana, quindi parliamo di Tosì che vale, Samici, Forum, i programmi che vediamo in TV prodotti a Roma sono prodotti nei nostri studios. Considera anche che parliamo di circa 200.000 metri quadri di spazi, quindi un asset molto importante. Di questa library di 500 titoli, com'è stata la scelta di questi 5? Sicuramente siamo andati con il cuore. La scelta l'ha operata soprattutto Guido Lombardo, che è l'attuale presidente, ma anche in connessione con Nexo Digital e RaiCom, che sono i partner di questa operazione. Certamente sono i più rappresentativi della didattica. Lombardo è considerato uno dei grandi capolavori del cinema internazionale, per esempio, e quindi non si poteva non metterlo. Sono anche film attuali, perché la Ciociara pone dei temi che sono attualissimi, ma anche Rocco e i fratelli, il tema dell'immigrazione. Ecco, quindi temi universali e film riconoscibili, sicuramente che tutti abbiamo visto nel nostro passato e che potremmo amare rivedere nelle sale cinematografiche. Due curiosità: verranno presentati in successione e quante sono le sale che li ospiteranno? Le sale si stanno continuando ad aggiungere, credo che riusciremo ad arrivare a 150 sale su ambito nazionale. Ci sono anche già dei dati molto confortanti, perché per esempio il primo film che è uscito, che è Il Gattopardo, se non erro era arrivato 14° nella classifica generale, quindi un risultato molto incoraggiante. Consideriamo anche che alcuni di questi film i giovanissimi non li conoscono, invece ci risulta, le prime statistiche ce lo stanno dicendo, che al cinema sono andati anche i ragazzi, questo ci fa molto piacere. Ci sarà una settimana per film e Nexo ci ha anche proposto la possibilità di prolungarlo magari nei mesi di settembre e pensare di farne anche un progetto di caratura internazionale, cosa che ci lusinga molto. Ovviamente organizzare una serie di proiezioni in giro per il mondo e sarebbe un'attività molto complessa, valuteremo e se possibile la realizzeremo. Tutti i riferimenti internet per sapere dove vederli? Nexo Digital sicuramente è la cosa migliore, poi noi saremo anche su tutti i canali social. Andando nel sito di Nexo possiamo considerare quella che è proprio la proposta dei singoli film nelle singole sale, quindi probabilmente anche prenotare banalmente i biglietti online. Titanus 120 Classics, 5 capolavori del cinema italiano in sala restaurati per celebrare i 120 anni della casa di produzione Titanus. Un saluto e un ringraziamento a Massimo Veneziano. A presto! Grazie a voi, è stato davvero un piacere. A presto al cinema. Con Chiara Proietti d'Ambra, regista del documentario Welcome to Italy. Ben trovata! Ciao, buongiorno a te Federico. Cos'è questo lavoro? Welcome to Italy è un film inchiesta, una modalità di fare informazione che era un po' sparita dalla TV. Corrado Formiglia e Alberto Nerazzini l'hanno riportata in auge alla 7 e è andato in onda a maggio ed è la storia di Usman Stilla, un ragazzo di 22 anni che era partito dalla Guinea l'anno scorso per raggiungere non l'Italia ma la Francia, paese in cui non è mai riuscito ad arrivare. Ha passato vari CPR, centri per i rimpatri, fino a decidere con un gesto estremo di finire la sua vita all'interno del CPR di Ponte Galeria a Roma a febbraio del 2024. E noi ripercorriamo la sua storia a ritroso e ripercorrendo la sua storia accendiamo un po' quella che è un faro all'interno di questi luoghi, ma in realtà all'interno poi dell'Italia, perché la storia di Usman racconta luoghi e persone che dimostrano come questo paese, forse non solo qui, si sia persa ogni tipo di umanità, di valori nei confronti di queste persone che arrivano qui e che in realtà, come nel caso di Usman, neanche voleva fermarsi in Italia. Come nasce questo progetto? Perché da più di un anno io mi occupo per Piazza Pulita, il programma dove lavoro da tanti anni, di CPR e stavo preparando una seconda inchiesta a febbraio quando i giornali hanno dato la notizia del suicidio di Usman all'interno del CPR di Roma, e da subito abbiamo intuito che dietro la morte di Usman ci fosse tanto da raccontare, perché c'erano tante cose che non tornavano. E in più lui muore lasciando una scritta sul muro del CPR di Roma, ricordando la Guinea, il suo paese di origine, la mamma. E quindi ci siamo guardati in redazione, che in quel periodo stava nascendo questo nuovo programma di inchieste, 80 minuti di inchieste in prima serata. Abbiamo deciso di fare una scommessa, perché non è facile portare in prima serata 80 minuti di inchiesta su un tema così doloroso e così difficile, così divisivo come sono i centri per rimpatrio e i migranti in generale. E abbiamo deciso di metterci 2 mesi e mezzo a lavorare H24 sulla storia di Usman, rintracciando i suoi familiari e riandando in tutti i luoghi in cui lui era passato. Avete ripercorso questa storia a ritroso, come dicevi, e come lo avete poi articolato? Con materiali d'archivio, interviste? Io e il mio bravissimo collega, il filmmaker Mirko De Angelis, siamo stati in tutti i luoghi in cui Usman è andato: Ventimiglia, Cassino, Trapani, Roma. E quindi abbiamo fatto noi interviste e ricerca sul campo, come si fa nell'inchiesta. E poi abbiamo avuto la fortuna che in alcuni casi, per esempio a Cassino, che è il territorio, la zona di Usman è stato per più tempo, abbiamo trovato anche del repertorio inedito. C'era un collega di Cassino che aveva dei video di Usman e quindi li abbiamo utilizzati all'interno del reportage, e in più ci hanno consentito di avere sia la famiglia di Usman dei video di questo ragazzo, e sia le persone che l'avevano conosciuto in questo viaggio e avevano conservato dei video e delle foto che raccontavano preziose informazioni di quella che era stata la sua permanenza in Italia. Dopo la messa in onda, che circuitazione ha questo lavoro? È un lavoro che è fruibile per tutti, sia sul sito di La 7 che su YouTube, sulla pagina di 100 minuti, e inaspettatamente da questa sera iniziano anche delle proiezioni tra la gente. Ci hanno chiesto alcuni organizzatori di eventi di poter avere l'inchiesta completa per proiettarla oggi, per esempio a Roma, a Casetta Rossa, nell'ambito della festa dell'estate. Il 6 ci sarà un'altra proiezione a Torino, e quindi inaspettatamente sta circolando anche in questo modo, senza che noi l'avessimo previsto. Quindi io sono molto felice di questo, sarà sicuramente una grande emozione vederlo andare in giro tra le persone. Il documentario Welcome to Italy. Un saluto e un ringraziamento alla regista Chiara Proietti d'Ambra. A presto! Grazie mille a te e a voi. Con la produttrice Valentina Noia dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema per presentare il cortometraggio La vita magra di Francesca Giuffrida. Ben trovata! Ciao, grazie Federico per l'invito. Di cosa parla questo cortometraggio? Parla di una storia di una madre da sola con una figlia, una bambina intorno ai 10 anni, che in una fase particolare che potrebbe essere la fine della scuola, dell'estate, sbarca il lunario con questo suo lavoro un po' precario, che è quello di vendite porta a porta. E sua figlia assiste, diciamo, a quello che è il suo percorso lavorativo, l'incontro con i clienti, e vedendo il lavoro della mamma deciderà, un po' per il proprio tornaconto, un po' anche per sostenere la mamma, di compiere determinate azioni. E quindi è una storia un po' di formazione, ecco, di crescita di una bambina senza troppe opportunità, o forse non le opportunità migliori, ecco. Come nasce questo racconto? Sulla base di una storia, di un soggetto che ha scritto Giulia Betti, la sceneggiatrice, e immediatamente, diciamo, una storia che ha colpito l'interesse della regista, che è appunto una giovane regista, Francesca Giuffrida, che si era già avvicinata ai temi sociali attraverso la finzione. Ma questo è un corto che si poteva facilmente radicare in un quartiere, in un contesto come quello di Barriera di Milano a Torino. La storia appunto era scritta come se non avesse una precisa localizzazione geografica, era una storia che poteva essere ambientata in qualsiasi città italiana, ma che abbiamo subito immaginato insieme alla regista di poter ambientare proprio nel quartiere della periferia nord di Torino. Come nasce la collaborazione con l'Associazione Museo Nazionale del Cinema? Io lavoro per l'Associazione Museo Nazionale del Cinema da diversi anni come progettista e attualmente sono anche vicepresidente. La collaborazione nasce per il fatto che abbiamo provato un bando, che è il bando Nuove Opere per chi crea della SIAE, e lo abbiamo vinto grazie appunto al curriculum dell'associazione, perché era un bando importante che la SIAE metteva a disposizione dei fondi per realizzare dei cortometraggi con autori e autrici under 35. Quindi Francesca rispondeva a questo requisito e anche i criteri di eleggibilità per l'associazione erano accessibili, quindi abbiamo deciso e preferito fare domanda con l'Associazione Museo Nazionale del Cinema e abbiamo vinto il finanziamento. Cosa hai apprezzato di questo lavoro? Sicuramente è molto interessante l'approccio a tutta una serie di questioni sociali che rimangono comunque nel corto sullo sfondo, perché quello che domina più che altro la narrazione di questo rapporto madre-figlia. Però quello che mi aveva interessato maggiormente era il senso di fragilità e precarietà di questa giovane madre che in qualche modo vorrebbe essere un esempio per sua figlia, ma in fondo è la prima a deludere le sue stesse aspettative sul proprio ruolo. E questo tema di una maternità insicura, ecco, fondamentalmente, che avevo trovato molto interessante. Allo stesso tempo è un film che ha anche apprezzato molto la Fondazione Montessori Italia, che sta per inaugurare un nuovo spazio in Barriera di Milano, e quindi sicuramente il territorio e anche i riferimenti di tipo, diciamo, educativo e formativo, e anche di mancanza, diciamo, di riferimenti, e il tema della povertà educativa sicuramente sono dominanti all'interno di questo cortometraggio. Il titolo ha un richiamo letterario. Sì, assolutamente, abbiamo molto combattuto, era il titolo, proprio il titolo originario che avevano pensato la sceneggiatrice e la regista, proprio perché gioca su questo elemento narrativo del film, che è proprio quello anche dell'ossessione verso dei canoni di bellezza che portano verso il tema della magrezza, però allo stesso tempo appunto un titolo letterario importante a Bianciardi, ma oltre all'ispirazione letteraria c'è proprio anche la questione sociale della povertà educativa dei bambini. Come giustamente sottolineava Rossella Trombacco della Fondazione Montessori Italia, cosa è necessario per crescere per un bambino, per non avere una vita magra? E sicuramente la risposta non in dei modelli consumistici, ma in dei modelli ricchi dal punto di vista relazionale. E quindi per andare contro alla vita magra che questa bimba e sua mamma esperiscono. Ci sarà una presentazione pubblica a breve, giusto? Esatto, siamo stati selezionati nel concorso internazionale cortometraggi al Prestigio Film Festival, che si svolgerà la prima settimana di luglio. La proiezione del nostro corto è prevista la sera dell'8 di luglio a Prestigio. E in questo momento stiamo anche affrontando un giro festival, stiamo iscrivendo il film a diversi festival nazionali e internazionali. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Sì, potete sicuramente leggere il comunicato stampa sul sito dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema, che è amlc.it, e poi naturalmente anche i nostri canali social, l'Associazione Museo del Cinema e anche Notte Americana Film Production. Il cortometraggio La vita magra di Francesca Giuffrida, un saluto e un ringraziamento alla produttrice Valentina Noia dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema. A presto! Grazie! Con Alessandro Zoppo, uno dei curatori, per presentare la 12ª edizione del Caravan Fest, festa di cinema, commedie e culture, a Roma, Parco Giordano Sangalli, dal 3 al 12 luglio 2024. Ben trovato. Ciao Federico, buongiorno, grazie mille, grazie. Spieghiamo cos'è questa festa. Caravan è un festival che ormai ha la 12ª edizione, quindi cominciamo a essere abbastanza grandi. Come recita il sottotitolo, è una festa di cinema, commedia e cultura, perché ogni anno nel cuore di Perpignattara, a Parco Giordano Sangalli, via dell'Acquedotto Alessandrino, proponiamo un vero e proprio concorso di festival, quindi in questo anche la proposta ci distingue un po' da quella delle arene romane estive che vanno soprattutto sulle seconde visioni o sui classici. Noi proponiamo film principalmente in anteprima con ospiti internazionali e ci poniamo l'obiettivo di fare un po' un giro intorno al mondo con riferimento ovviamente alle numerose comunità straniere che vivono sul nostro territorio, quindi un festival locale ma anche globale. E da questo punto di vista il festival è nato con il proposito di avere un piglio programmaticamente non drammatico. La caratteristica di Caravan è proprio quella di essere una festa di commedie, cioè di proporre commedie, commedie drammatiche, quindi drammi, racconti di formazione, road movie, anche documentari, che però appunto raccontino le tematiche che ci stanno molto a cuore nel festival, che sono appunto l'incontro tra culture, il confronto tra culture diverse, con un approccio leggero che non vuol dire disimpegnato, ma che, come nella tradizione un po' della gloriosa commedia italiana, tende un po' a ridere anche spesso di tematiche drammatiche o comunque di affrontarle con un tono di leggerezza che però le rende accessibili ad una fascia di pubblico più ampie e soprattutto accende un po' una lampadina, apre una finestra su mondi in apparenza molto lontani ma che poi in realtà ci sono molto prossimi, perché sono i mondi delle persone che incontriamo ogni giorno e con le quali ci confrontiamo ogni giorno. Da questa idea è nata appunto quella del festival, che quest'anno ritorna all'interno del Castellone dell'Estate Romana. Noi siamo dal 3 al 12 luglio al Parco Sangalli a Perpignattara, un film ogni sera. In testa c'è un cortometraggio. Quest'anno il concorso lungometraggi ha come traccia, come filo rosso, le geografie sociali, e cioè l'interazione tra lo spazio, l'ambiente e la società da cui emergono i diversi modi di organizzare e di vivere il territorio. E un po' tutti i film hanno il paesaggio come protagonista aggiunto ai personaggi. E poi in testa ad ogni lungometraggio, ogni sera, c'è un cortometraggio. Il concorso di quest'anno si compone di 8 titoli che sono tutte animazioni. L'idea era appunto questa, di esprimere un po' un'istantanea, una fotografia del cinema d'animazione italiano, quindi corti anche molto brevi, da un minuto a 7-8 minuti, che racchiudono sempre un po' lo spirito di Caravan, che è quello appunto legato al tono leggero della commedia. Com'è stata la scelta dei titoli? È andata lungo questo percorso appunto delle geografie sociali e poi ci abbiamo cercato di fare un po' una pesca in quelle che abbiamo reputato le opere più significative che arrivano dall'area nostra di riferimento. In apertura, nella giornata del 3 luglio, abbiamo un film che arriva dall'Egitto in anteprima italiana, che si chiama Voi Voi Voi di Omar Hilal. È stato il film egiziano candidato agli Oscar dall'Egitto nel 2024, commedia molto divertente ma anche al tempo stesso drammatica, che racconta una storia di forte attualità, cioè la tematica migratoria, ma con un piglio molto molto brillante e divertente. Giovedì 4 luglio passiamo all'India, che è un paese fondamentale ovviamente nel quartiere, con un'altra opera prima, Dilly Dark di Dibakar Das Roy. Venerdì rinfreschiamo la nostra collaborazione con il Goethe Institute di Roma. Noi tendiamo sempre ad avere un occhio di riguardo per la cinematografia tedesca, perché ci dà sempre la possibilità di vedere come in Europa ci siano altri paesi, in questo senso sempre un po' più avanti dell'Italia, che raccontino l'integrazione, la costruzione delle nuove identità con il piglio appunto della commedia o comunque del racconto programmaticamente non drammatico. E quest'anno proponiamo un film che è passato in anteprima al Forum della Berlinale nel 2024 e che portiamo a Roma con la sua regista, che si chiama Narges Kalor. Il film si chiama Shahid, è un film che spero sorprenda il pubblico come ha sorpreso noi quando l'abbiamo visto la prima volta, perché è un ibrido curioso di commedia, musical, performance teatrale, documentario, autofiction. Sabato 6 invece ce ne vogliamo nelle Filippine con un film coloratissimo e molto divertente, I Love You Bexman di Pershing Talan, regista di riferimento per il cinema queer filippino. Un film così camp che potremmo dire per il giro torna indietro e diventa un film super intelligente e molto scatenato sul pregiudizio e discriminazione, sempre in ricerca dell'identità. Facciamo una pausa dal concorso domenica 7 luglio con un evento a cui teniamo molto, la proiezione speciale fuori concorso di Gazza Mon Amour dei fratelli Arab e Tarzan Nasser. È una serata che organizziamo per accendere un po' i riflettori su quanto sta accadendo a Gaza, e durante la serata sarà possibile fare una donazione a Gazzella Onlus, che è appunto una Onlus che si sta occupando di fornire aiuti umanitari a Gaza, soprattutto per le fasce più indifese, quelle legate all'infanzia. Lunedì 8 luglio riprendiamo con il concorso adesso e andiamo in Francia, altro partner storico del Festival del Rendezvous, Festival del Nuovo Cinema Francese. In questo caso è il nostro partner per presentare a Roma Viking Sun di Philippe Petit, un documentarista, in questo caso si è dedicato ad un film di finzione che è un po' il film emblematico delle geografie sociali di cui vi accennavo prima. Un racconto in bilico tra il realismo, il dramma, la commedia, comunque una certa leggerezza, un inno al collettivo, una riflessione sullo spazio urbano. Continuiamo martedì 9 andando in Romania, questa volta con un'altra opera prima, Horia, di Anna Maria Comăneci, anche quella è regista giovanissima che sarà presente al festival. In questo caso siamo proprio di Caravan 100%, road movie, racconto di formazione, un viaggio in motocicletta di questo ragazzo disfunzionale con una ragazzina incontrata per caso da Cluj alla Transilvania, ne succedono di tutti i colori. Poi mercoledì 10 ritorniamo nel subcontinente indiano per il gran finale del festival, Tenkigo dallo Sri Lanka, per la prima volta un film dello Sri Lanka Caravan, il regista si chiama Ilangoram e sarà con noi a Roma insieme alla produttrice del film, Rania Pereira, sua moglie anche. Film molto intelligente che mette in discussione la famiglia, il patriarcato, cioè tutto ciò che è tradizionale nello Sri Lanka. Film molto intelligente che tra l'altro è già oggetto di remake in India e in Corea. Giovedì passiamo al Bangladesh, il film del Bangladesh non può mai mancare a Caravan. In questo caso un'anteprima italiana di un'altra opera prima che si chiama Haus Nen Shahana, di una regista, attivista e scrittrice bengalese, si chiama Lesha Ghazi. Anche in questo caso un film che mischia un po' di toni, il dramma, la commedia e il musical, ma fornisce soprattutto un ritratto di emancipazione e di autoaffermazione femminile molto politico, radicale e molto importante, a cui teniamo molto. E poi chiudiamo venerdì 12 luglio con ovviamente cerimonia di chiusura e la premiazione e poi la proiezione dell'ultimo film in concorso a rappresentare l'Italia. Film che ovviamente conoscono in molti, C'è ancora domani di Paolo Cortellesi. La particolarità quale sarà a Caravan? Che questo film viene presentato con i sottotitoli in lingua bangla, perché il film di Paolo Cortellesi è stato scelto a rappresentare l'Italia al termine di una serie di laboratori che con la nostra associazione Bianco e Nero abbiamo svolto nei primi 5 mesi dell'anno presso 2 scuole del quartiere, CPA1 e la scuola Altramente, in cui viene fornito insegnamento dell'italiano a studentesse e studenti stranieri. E all'interno di questo progetto, che è sostenuto dall'8 per 1000 della Tavola Valdese, abbiamo usato 3 classici di ieri e di oggi del cinema italiano come strumenti didattici per l'insegnamento dell'italiano, non solo ovviamente della lingua, ma anche della storia, del patrimonio culturale, sociale, artistico dell'Italia. Al termine del progetto gli studenti e le studentesse hanno partecipato simulando un vero e proprio processo di voto, che insomma anche un po' l'elemento al centro del film di Paolo Cortellesi, votando il loro titolo preferito, e dalle votazioni è emerso appunto il film di Paolo Cortellesi, che sarà in gara e verrà proiettato con i sottotitoli in lingua bangla, quindi in un momento di condivisione di questo lavoro svolto con le studentesse e gli studenti, ovviamente anche con gli insegnanti del CPA1 e di Altramente, ma soprattutto un'occasione preziosa per cercare di coinvolgere nuove fasce di pubblico per un film che insomma è stato il caso della rivelazione della stagione in Italia e che speriamo in questo modo possa raggiungere la comunità del Bangladesh, che su Tarpignattara è quella più numerosa, ma non solo a Roma, poi in tutta Europa è la comunità più popolosa, anche più di quella londinese che storicamente era la comunità più ampia. Tutto il programma di Caravan è a ingresso gratuito, l'arena conta 200 posti, ma siamo in un parco, consigliamo l'accesso all'arena con mezzi sostenibili, c'è una rastrelliera per le biciclette, c'è l'autobus 409 che ferma esattamente di fronte all'arena. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli delle informazioni? Il programma completo lo trovate su www.caravanfest.it, Caravan è scritto con la K e la W, poi ci trovate come Caravan Fest su Facebook e su Instagram, su YouTube a breve ci sarà anche il trailer del festival. Per chi volesse venire anche qualche minuto prima, c'è l'Osteria degli Stolti lì vicino, dove il pubblico troverà delle offerte speciali per gli spettatori. 12ª edizione del Caravan Fest, festa di cinema, commedia e culture a Roma, Parco Giordano Sangalli, dal 3 al 12 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Alessandro Zoppo. Alla prossima! Grazie mille, grazie! Con Maurizio Di Rienzo, direttore artistico della 25ª edizione dello Shorts International Film Festival a Trieste dal 28 giugno al 6 luglio 2024, ben trovato. Grazie, ben trovati tutti voi. Spieghiamo cos'è questo festival. 25 edizioni, io sono direttore da solo da 3 e ancora un pensiero a Chiara Valentio Mero che lo ha guidato per molti anni insieme a me per altri 3 ancora precedenti, e c'è un gruppo eterogeneo di lavoro che, chiamandosi Shorts il festival, che prima si chiamava Mare Metraggio, vuol dire che ci sono tanti corti dal mondo, ma c'è anche qualcos'altro. Allora, i corti dal mondo nelle 7 sezioni competitive sono 117. Le sezioni competitive sono, le dico così, Shorts Express, durano meno di 5 minuti, Eco Shorts, ma non è roba didattica, Italian Shorts, quindi corti italiani, e Mare Metraggio, che è la storica, che ne ha più di tutti, 45, e da 42 paesi circa. In totale i paesi rappresentati sono una 50 comunque nel festival. Qua c'è Immersive, queste cose che ho detto le cura Massimiliano Narduli, la selezione, certo che sono presente, ma Massimiliano Narduli è il deus ex machina di queste selezioni. Poi c'è Antonio Giacomini, grandissimo esperto di realtà virtuale, che adesso si chiama Immersive come la sezione. Due tipi di concorsi con i visori, con prenotazioni di posti, c'è sempre affollamento, siamo contenti, un panel, un laboratorio, e quindi sono 7 in concorso B. E poi c'è Kids and Teens, i 2 pomeriggi dedicati a ragazzini dai 6 ai 10 anni e dagli 11 ai 15, 10 corti in concorso per ciascun pomeriggio, con selezionatori, perché sono stati educati da Manuela Morana, educati è una brutta parola, avviati a una lettura del cortometraggio durante sessioni scolastiche, potremmo dire, di Trieste Gorizia, scuole di Trieste Gorizia, e poi hanno scelto loro in una rosa i 10 che sono in concorso per ciascuna delle 2 categorie. E poi avremo tanti ragazzi in giuria, sono sempre 80-90 a pomeriggio. Quindi queste sono le cose in concorso. Aggiungo 3 eventi italiani fuori concorso, tra cui quello che preapre il concorso del sabato 29, quando ci saranno i 23 Shorts Express, 5 minuti massimo di durata, un genere che sta tornando, la brevità, la velocità, molto eterogeneo come genere. E il corto è Enifal, la fine di Daniele Cipri, con una scuola di allievi, di ragazzi di Palermo, e sarà presente Daniele Cipri a inaugurare il festival, si può dire, questo corto fuori concorso. Altri 2 italiani fuori concorso, i 5 corti European Film Academy, la selezione che accade ci farà l'onore di darci, e poi il Focus Turchia, che chiuderà il festival dopo la premiazione di sabato 6 luglio al Giardino Pubblico, dove la sera si svolgono tutte le proiezioni, perché altre sono al Teatro Miela, e la realtà immersiva è la Sala Xenia, quindi uno spazio un po' particolare, e quindi i corti dedicati alla Turchia, 5 Focus Turchia, e quindi chiacchiereremo anche del corto turco. L'apertura ufficiale, l'ho già detto, inizia sabato 29, ma c'è una preapertura importante alla quale tengo molto, che è Simone Maschi con In Bell, il suo lungometraggio dell'anno scorso di Orizzonti, di animazione, una produzione molto lunga, complicata, uscirà per la Chirete finalmente un anno dopo, a fine agosto, e Simone Massi è un animatore e disegnatore che con i suoi 29 corti ha vinto 3 Nastri d'Argento, un Davide Donatello e 900 premi nel mondo. Quindi chiacchiereremo con lui una mezz'ora, 40 minuti al Giardino Pubblico prima di far vedere In Belle, e mostreremo un paio dei suoi corti del passato, il 28, venerdì 28, quindi la preapertura, e poi sabato cominceremo con le competizioni, e poi c'è anche dell'altro. Oltre agli ospiti che ci hai citato, gli autori e le autrici dei lavori in programma saranno lì ad accompagnarli? Sì, non sempre coincidenti i registi, una 40 sono attesi tra registi, produttori, ma arriveranno soprattutto negli ultimi 3 giorni del festival. Venerdì 5 ci sarà lo spazio Italian Shorts, e alcuni verranno anche prima, e lì poi ci sarà un panel, un incontro. Ogni anno c'è sempre un confronto molto bello tra autori di vari paesi, nazionalità, esperienze, e sono circa 50 i paesi comunque rappresentati da Shorts. E c'è anche la presenza, ho citato Cipri, ho citato Simone Massi, dei premi, i premi cinema del presente ai Fratelli di Innocenzo, che faranno una masterclass con immagini dei loro film e il trailer della magnifica serie Dostoevsky, che esce in cinema a breve per un po' e poi andrà su Sky in autunno, questo sabato 29. Il 30, premio Prospettiva, la Prospettiva, un attore e un'attrice che stanno per fare il falso, Carlotta Gabba, che è anche in Dostoevsky, era in America Latina, era in Dante di Avati, in Gloria, il film della Vicario, così premiato e apprezzato recentemente. E poi i 2 interpreti del presente di quest'anno, un uomo e una donna, l'anno scorso ci fu solo Gipuni, quest'anno avremo Isabella Aragonese, fresca di Un Nastro d'Argento per le serie TV, per il suo ruolo ne Il Re a fianco di Zingaretti e di Giuseppe Gagliardi, una serie TV di Sky, e poi Michele Riondino. Io l'ho scelto però prima che cominciasse a vincere premi dappertutto, e giovedì ci saranno I Nastri d'Argento, mi sa che il suo palazzino all'Alpe ha preso qualcun altro Nastro d'Argento dopo aver vinto 3 Davide Donatello, e parleremo con Michele Riondino